Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento e sono la Vale, la radiofonica del grande sorella, e sono in compagnia di... Allora, io sono Gaby e sono qua anche con Tön e con Levi e noi siamo olandesi. Wow ragazzi, fantastico! E cosa ci fate qui? Partiamo da questa domanda. Sì, allora noi lavoriamo qua a Lago di Garda per turismo. Ok. Lavoriamo per un campeggio, facciamo reception e anche animazione. Wow, allora, e qui stasera cosa state festeggiando? Niente. La vostra festa. Amicizia è fare festa e basta. Esatto. Ok, perfetto. E un'altra cosa importante, siete amici? Cosa siete? Colleghi? Colleghi e anche amici. Venite dallo stesso paese dell'Olanda? No. Where do you live? Dai, non ti preoccupare che gli amici da casa ti ascoltano. Sono curiosi di sapere. Da dove vieni? And I live in Oudenbos. Wow ragazzi, vi dico solo che non parlo bene l'inglese, anzi può dire poco e niente, quindi abbiamo la nostra traduttrice qui che ci traduce, così anche da casa per chi non parla l'inglese può capirvi benissimo, va bene? Certo, sì. Ok? Sì, sì. E ditemi un po', raccontatevi un po'. Allora, dovete fare una storia. Sì. You have to tell a story about yourself, then you speak it in English and I will translate it. Dai, sono curiosa. I'm Tön. I'm 21 years old. I'm from the Netherlands. 3 years ago, I started my internship here in Italy at a glamping weekend. And after that, I worked last year also at glamping weekend. And this year, I'm also again working there. And now I'm gonna be the team leader there. I'm making there the shows, program, posters, leading the whole team, etc. etc. But I think it's time for Levi to tell her beautiful story. Allora, prima io traduco tutto. Sì, vai, tranquilla. Per chi che non parlano inglese. La prima sono io. No, allora lui è Tön e viene da un paese, si chiama Breda, in Olanda. È venuto qua 3 anni fa per fare il suo internship per la scuola. E poi è venuto un anno dopo per lavorare e poi ha mai smesso perché è piaciuto vivere in Italia. Sì. Lei invece è la stessa cosa? Sì, lei però un anno meno. Ha fatto internship tipo un stage l'anno scorso e quest'anno è il primo anno che lei è tornata per lavorare qua. Bellissimo, perché si sono trovati bene. Sì. Si divertono, cioè, è diverso dall'Olanda, secondo me, giusto? Spiegatemi un po' com'è l'Olanda, non ci sono mai stata. Allora, Olanda è molto piatto, non ci sono montagne. Ok. È molto... Tell me something more about the Netherlands. What is typical? Cheese. No, has something really typical about... No, something really... Some really typical Dutch thing is, of course, the beautiful tulips. We have in the Netherlands beautiful fields full of tulips and the windmills. And, of course, the wooden shoes and cheese and the weeds and et cetera. Of course, it's very flat and we have beautiful cities also with beautiful canals and where you can rent a boat or have a tour through a beautiful city in the Netherlands. Cosa ha detto? Praticamente in Olanda ti trovi molti tulipani, perché i tulipani sono famosi per Olanda. Poi ha detto la stessa cosa, che non ci sono montagne e basta, mangi formaggio. But have some beautiful fact about Levi. Her dad works in the tulips. Ah, yeah. Il suo padre lavora con i tulipani. Giustamente in Irlanda con i tulipani, è giusto. Esatto. È il divertimento, è come qui o è piatta la cosa? Come? Il divertimento c'è o non c'è? Come in Olanda? Stasera qui è... Ci sono locali del genere? Certo, ma molto molto diverso. Sì. Noi abbiamo tipo lì più, tipo i club più grandi, i festival, sì, è più... Comunque, sì. Siete quasi abituati, diciamo, anche voi a questo casino, sì, a questa confusione. Sì, quello sicuro. Poi a noi piace fare la festa, non è? Ma, ci sta, ragazzi, perché dobbiamo far festa, giusto? Come si chiama lei? Ricordami il suo nome. Mi? Lei. Lei si chiama Levi. Levi? Sì. Tutto bene? Sì. Perfetto, bene. Allora, io vi lascio proseguire e far fare la fila al vostro karaoke. Super. Per cantare, va bene? Cantare? Oh, bellissimo cantare. Karaoke. Fantastico. E allora, vi lascio cantare. Una buona serata. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Alla prossima, allora. Grazie ai nostri. Va bene. Grazie. Saluti, grazie, ragazzi. Ciao. Ciao.